Salva Danaio di Deborah Rosciani. Benvenuti da Deborah Rosciani a Salva Danaio. Il piano famiglie per la sospensione dei mutui è pronto, si parte il 1 febbraio, non più a gennaio come inizialmente previsto. Le modalità operative e i parametri per permettere alle famiglie in difficoltà di sospendere il mutuo sono stati definitivamente stabiliti dopo lunghe trattative. Venerdì scorso è stato siglato l'accordo fra l'ABI, il sistema bancario, e 13 associazioni dei consumatori. Come vi dicevo, ci sono alcune modifiche rispetto a quanto ipotizzato nella prima stesura del piano che potrebbe riguardare potenzialmente, secondo una stima non ufficiale che è circolata nei giorni scorsi, quasi 40.000 nuclei familiari in Italia, ed è una misura che riguarderà i mutui per l'acquisto dell'abitazione principale fino ad un tetto massimo di 150.000 euro. Oggi vi spieghiamo come fare a farne richiesta. Ci spiegherà tutto Angelo Peppetti del settore crediti retail dell'ABI, l'associazione appunto delle banche italiane, ancora una volta con noi. Era già stato con noi qualche mese fa quando l'iniziativa era stata lanciata sempre d'intesa con le associazioni dei consumatori. Peppetti, buongiorno e grazie di essere di nuovo a Salva Danaio. Buongiorno. E soprattutto abbiamo, senza nulla togliere ovviamente all'ABI, Fabio Picciolini, segretario nazionale della Dicomsum, che è stata l'associazione dei consumatori che più fermamente di tutte le altre ha voluto questo accordo. Anzi, è stata forse Picciolini, mi ricordi se sto dicendo una cosa sbagliata, anzi me lo precisi lei, mi pare che siete stati proprio voi, no, a sponsorizzarla, a partire con questa iniziativa, a promuoverla d'intesa poi con le altre. Buongiorno innanzitutto, e sì, sinceramente la ringrazio, perché siamo stati il 5 agosto, abbiamo fatto la prima lettera all'ABI per equiparare le famiglie alle imprese che avevano avuto appunto l'accordo, la moratoria con la Confindustria. Benissimo, infatti questa della moratoria per le famiglie praticamente ricalca proprio l'iniziativa a favore della piccola e media impresa e rappresenta un caso unico in Europa. Poi valorizzeremo adeguatamente anche con Peppetti dell'ABI questo aspetto. E intanto il numero verde a vostra disposizione per chiamarci, per farci delle domande su questa moratoria, il numero verde è sempre lo stesso, è l'800240024. Scriveteci se volete anche al 349-238-6666. La borsa stamattina è positiva, riparte di nuovo bene la situazione sui mercati finanziari internazionali. Abbiamo un più 0,7% di rialzo per Francoforte, più 0,75% per Londra, che è la miglior piazza d'Europa in questo momento, Parigi più 0,6%, mentre Milano è molto più modesta, sta guadagnando lo 0,30%. Questa sarà una settimana piuttosto tranquilla sui mercati, la settimana di Natale, per cui le SIM chiuderanno, gli scambi sicuramente limiteranno. Non ci sono peraltro dati economici di rilievo che arriveranno in settimana dagli Stati Uniti, la stagione delle trimestrali è conclusa almeno per il momento, e quindi questo è un po' il clima, un clima di tranquillità per la borsa, e però insomma orientato al positivo. Milano stamattina sta premiando Mediaset in rialzo di 2 punti percentuali. Venerdì il Biscione ha chiuso l'accordo per la fusione fra le controllate spagnole Telecinco e 4. Eni guadagna l'1,76% con le quotazioni del petrolio stabili intorno ai $73, in pregilo più 1,25% sempre in vista dell'avvio dei lavori per il ponte sullo stretto, Saipem più 1,25%, Bulgari più 1,24%. In discesa invece Snameret Gas perde il 2,85%, in discussione di stampa del fine settimana parlano di una possibile razionalizzazione del gruppo per volontà dell'azionista di riferimento di Eni, Banco Popolare meno 2,43%, Finmeccanica meno 1,43%. Questi sono i principali temi della seduta, con il rapporto euro-dollaro a 1,43,33. Lasciamo la borsa, andiamo subito al tema di oggi, che riguarda tante famiglie italiane che in questo momento, per sopravvenute difficoltà finanziarie e sopravvenute difficoltà lavorative, c'è chi ha perso il posto di lavoro, c'è chi è in cassa integrazione, chi è in mobilità, insomma molte famiglie non riescono a far fronte all'impegno finanziario mensile che è la rata del mutuo, e allora parte finalmente la moratoria per la sospensione del mutuo per chi è in difficoltà. Sentiamo di che cosa si tratta. Le questioni sul tavolo erano diverse, ma alla fine, con buona pace di migliaia di famiglie soffocate dalle rate dei mutui, la matassa si è sciolta. Venerdì scorso è stato infatti firmato l'accordo tra l'Associazione Bancaria Italiana e le 13 associazioni dei consumatori per la moratoria sul pagamento delle rate, che scatterà a partire da febbraio 2010. In particolare, l'operazione, che rientra nel cosiddetto piano famiglie, riguarderà i mutui inferiori a 150.000 euro per l'acquisto dell'abitazione principale, con il reddito del mutuatario che non dovrà superare i 40.000 euro annui. L'iniziativa, annunciata lo scorso ottobre, prevede la possibilità di sospendere fino a 12 mesi i pagamenti per titolari di mutuo che abbiano subito negli ultimi tempi un evento sfavorevole: perdita del lavoro, cassa integrazione, morte di uno dei componenti del nucleo familiare, percettore di reddito. Circostanze che devono essersi verificate tra il 1 gennaio e il 31 dicembre 2009. 800 24 00 24, vi ricordo il numero verde per le vostre domande, 349 238 6666, vi ricordo invece il numero per poter intervenire in diretta. Angelo Peppetti, allora ripartiamo con lei, abbiamo già detto che stamattina cercheremo di dare per quello che è possibile, perché chiaramente abbiamo già visto per esempio cos'era successo per la restituzione dei tassi di interesse superiori al 4%, chiaramente poi si va un po' a macchia di leopardo, le banche devono pian piano adeguarsi e non tutte probabilmente saranno in grado di partire con la stessa tempistica, anche perché c'è da ammettere ovviamente che per gli impiegati delle banche molto spesso non è facile star dietro anche a tutte queste novità. Sono stati due anni molto complessi dal punto di vista dei mutui, quindi anche questo al sistema bancario va riconosciuto. Adesso arriva questa ennesima novità, comunque una misura di sostegno per le famiglie molto importante. Stabiliamo subito la tempistica, come dicevo, si parte da febbraio, giusto? Sì, noi abbiamo previsto un arco temporale entro il quale il cliente può richiedere l'avvio della sospensione, che va dal 1 febbraio 2010 al 31 gennaio 2011, ma l'arco temporale entro il quale si devono verificare gli eventi che la vostra scheda ha puntualmente sottolineato è stato allargato. Io ricordo che la prima bozza di piattaforma base prevedeva dal giugno 2009 fino al 31 dicembre 2010, questo arco temporale è stato ampliato al 1 gennaio 2009. In sostanza copriamo due anni entro cui si devono verificare gli eventi previsti per richiedere la sospensione. Quindi, quindi mi faccio capire, praticamente potrà far richiesta della sospensione del mutuo a chi cambia la propria situazione a partire da gennaio? Dal 1 gennaio 2009, cioè anche chi ha... Ah, di quest'anno, certo, quindi l'effetto retroattivo. Anche chi purtroppo ha già subito l'evento che ha ridotto la capacità di credito, quindi chi ha già perso il lavoro, chi è entrato già in cassa integrazione, eccetera. Quindi questa è a nostro avviso un'importante novità anche aggiunta grazie all'accordo, ad un confronto con le associazioni dei consumatori. Vorrei sottolineare che si tratta di un'iniziativa che non ha uguali al mondo. Non esiste nessuna industria bancaria che autonomamente avvia un'iniziativa di questo tipo. Sì, devo dire che però magari all'estero, cosa che peraltro ha provocato anche dei danni non indifferenti, diciamo che mediamente il rapporto fra banca e cliente è molto più flessibile, al punto tale che in automatico la banca estende i mutui, li rende molto più praticabili per le famiglie, ma questo ha generato anche dei problemi e va ricordato. Un'altra novità rispetto alle prime formulazioni della misura: il limite per rientrare nella moratoria di 40.000 euro di reddito per l'intestatario del mutuo. Picciolini, questa è una soglia sulla quale avete discusso, credo, perché qualcuno ha anche detto, questa è un'obiezione che è stata sollevata proprio da qualche bancario durante le riunioni dell'esecutivo ABI, non vorrei che, diceva qualcuno, in questa misura rientrasse anche magari una famiglia che non è esattamente in condizioni di difficoltà finanziaria, e però insomma ricordiamo che c'è il parametro della perdita del posto di lavoro, quindi sì, reddito alto, ma se si perde il lavoro questo è un reddito che non esiste più. Sì, questo è stato uno dei punti che ci ha fatto, non dico perdere, ma ci ha fatto discutere per parecchi giorni, perché 150.000 euro per noi era un importo accettabile, tenuto conto che si tratta quindi poi di una rata di 800 euro, quanto costa una locazione, un affitto, quindi quasi tutte le famiglie, particolarmente nelle grandi città, hanno un mutuo di questo genere. L'aver inserito il reddito di 40.000 euro è stata una scelta dell'ABI che da un lato comprendo, ma non fino in fondo, perché l'ABI voleva, ben compreso, poter evitare che chi comunque avesse una situazione positiva in famiglia non rigoresse a questo mezzo. Forse appunto parlando di perdita di posti di lavoro, di gravi handicap, di morte, forse si poteva evitare, ma diciamo l'accordo è sostanzialmente positivo, quindi abbiamo accettato anche questo. Siete contenti dell'accordo, Picciolini, o secondo voi c'era anche qualche altro punto su cui trattare, su cui si poteva far meglio, oppure questo è veramente il massimo che si poteva ottenere dal sistema bancario, sperando naturalmente che la situazione finanziaria ed economica reale si tranquillizzi nel 2010 e che tutti possano tornare, quelli che hanno perso il posto di lavoro, magari non a riconquistare il posto perso, ma a trovare un altro impiego? Ma io credo che a livello di sistema, quindi a livello di associazione bancaria, abbiamo raggiunto il massimo possibile. Ripeto, non è stato neppure facile, se ci abbiamo messo quasi 5 mesi. Io credo che alcuni passi avanti dovrebbero essere fatti poi a livello di grandi gruppi a cui ci rivolgeremo appena passate le festività natalizie, perché l'accordo prevede espressamente che questa è una misura minimale rispetto a quello che si può fare. Io ne dico una per tutte, ma tralascio per ora i 40.000 euro di reddito, il fatto che è la banca che può scegliere quale tipologia di sospensione attuare, perché le tipologie inserite nell'accordo sono due: uno è il rinvio totale della rata, quindi capitale e interessi, e l'altro è rinviare solamente il capitale e seguire a pagare gli interessi anche quindi, in 12 mesi di sospensione. Quindi ripeto, non è piaggeria la mia, a livello di sistema, a livello di gestione bancaria credo abbiamo fatto il massimo, spero e mi auguro che facciano molto di più i singoli gruppi bancari. Peppetti, adesso cominciamo tra un po' peraltro a sentire subito i nostri ascoltatori, perché come potete immaginare ognuno pensa a quello che succede in casa propria, quindi vuole capire appunto se la propria situazione può essere sostenuta in questo momento attraverso questa moratoria. La lista delle banche che aderiranno all'iniziativa sarà presto pubblicata sul sito dell'ABI. Io immagino che un po' come tutte le altre iniziative tutto il sistema aderirà, no? Cioè, voglio dire, che tipo di previsioni si possono fare, tenendo anche conto, magari ce lo può ricordare anche lei, Peppetti, che molte banche hanno attivato già da mesi in casa propria iniziative individuali per permettere già questa sospensione. Esattamente, noi prevediamo di fatto un'ampia adesione da parte dell'industria bancaria, un po' il successo che ha avuto la BMF. La lista delle banche che aderiranno sarà pubblicata presso il sito dell'ABI, in cui ci saranno anche le offerte migliorative rispetto a quella che giustamente ha ricordato il dottor Picciolini, rappresenta una piattaforma base a cui le banche aderiranno, apportando ovviamente condizioni migliorative per il cliente. Nel sito dell'ABI è possibile anche trovare i documenti per la richiesta di sospensione delle rate. Sarà possibile trovare, non ci sono già naturalmente? No, ci sono già, è possibile scaricarli e tra l'altro verranno distribuiti a breve anche presso le filiali delle banche nei siti internet. Non avevo controllato, perché pensavo che fosse possibile trovarli già dei prossimi giorni, quindi allora ho capito male, come dire, sempre i termini della tempistica, è possibile già scaricarli e vedere quali informazioni ha bisogno la banca, poi però presentarli dal 1 febbraio. Esattamente, certo. Benissimo, e dopo spiegheremo anche entro quanto tempo la banca può dire sì o no a questa richiesta, ritorneremo sui parametri e sui dubbi anche del, come sollevava appunto Fabio Picciolini, del rimborso, perché appunto la banca può decidere che tipo di moratoria fare, adesso ne parleremo ancora meglio. Metto dentro subito una domanda di qualche ascoltatore in modo tale che faccio preparare i nostri ospiti e risponderemo loro appunto dopo il nostro primo break. Sentirei Lucia da Milano. Lucia, buongiorno. Sì, buongiorno, salve. La mia domanda era riferita alla mia condizione. Intendevo sapere se per nucleo familiare si intende anche una persona sola. Io ho acquistato la prima casa in provincia di Milano 4 anni fa. Ho un mutuo inferiore a 150.000 euro, vivo da sola, sono singola, ho perso il lavoro a febbraio. Anche a proposito di questo volevo chiedere che tipo di sospensione di lavoro si intende. Cioè, sono stata una persona che è stata licenziata per un motivo o per un altro, perché io sono stata licenziata per futili motivi, diciamo. Comunque di fatto il lavoro non ce l'ha, lei non ha un reddito in questo momento, Lucia, pertanto teoricamente il suo impegno con la banca non può onorarlo. Salva Danaio. Eccoci Eccoci di nuovo in diretta. Allora, come ampiamente annunciato nelle ultime settimane, ce ne siamo occupati anche a lungo venerdì pomeriggio. Venerdì scorso è arrivato l'accordo fra ABI, l'Associazione delle Banche Italiane, e 13 Associazioni dei Consumatori, che ufficializza il via libera alla sospensione per 12 mesi delle rate dei mutui per le famiglie in difficoltà. Stamattina vi stiamo spiegando le modalità operative con cui questo accordo si concretizzerà per le famiglie che hanno bisogno, con Angelo Peppetti dell'ABI e Fabio Picciolini della Diconsum. E allora, Lucia da Milano ci chiedeva, insomma, ma che tipo di considerazione va fatta? Bisogna dare una definizione intanto al nucleo familiare, perché io vivo da sola e quindi con il mio reddito mi pagavo il mio mutuo, e soprattutto le banche verificheranno anche le modalità con cui, o i motivi per cui, una persona ha perso il posto di lavoro. Angelo Peppetti. Innanzitutto, noi non parliamo di nucleo familiare, ma parliamo di mutuatario, quindi 40.000 euro sono riferiti al singolo mutuatario, quindi dal momento, tra l'altro, che l'80% dei mutui sono cointestati, in realtà è un nucleo familiare, diciamo, di 80.000 euro di imponibile, quindi non è che stiamo parlando di, abbiamo allargato molto le maglie, quindi il concetto non è il nucleo familiare, è semplicemente il mutuatario. L'intestatario del mutuo, sì. Sì, per quanto riguarda la tipologia di perdita del posto di lavoro, l'importante è che non sia una perdita del posto di lavoro per licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, cioè è chiaro che se sei stato licenziato ai sensi dell'articolo 18 della legge 300 del 70 non rientri in questa fattispecie, in sostanza. Per il resto rientrano tutte le altre tipologie di cessazione del rapporto di lavoro a prescindere dalla tipologia di contratto, quindi non solo tempo determinato e indeterminato, ma qualsiasi tipologia di lavoro atipico. Ecco, un'altra cosa che vorrei precisare molto rigidamente è che sull'intera operazione non sono previsti né interessi di mora, né spese di istruttoria, né commissioni, né garanzie accessorie. Peppetti, su questo, quindi se uno sportello bancario si dice sì, ti faccio aderire alla moratoria, ma ti sospendo la rata ma ti costa l'operazione, non so, 50 euro da riconoscere allo sportello presso il quale sia cliente, qua siamo di fronte ad una banca che non, ad uno sportello che non si comporta correttamente. Esatto, non sono spese né costi di istruttoria aggiuntiva, sono sospese per i soggetti, perché attenzione, bisogna ricordare che rientrano nella fattispecie anche i mutuatari che hanno un ritardo di pagamento fino a 180 giorni consecutivi, perché questo ritardo sia dovuto alle cause e agli eventi che determinano la sospensione, e per questi soggetti viene sospesa la mora, quindi la maturazione degli interessi di mora per il periodo di sospensione. Mm-hmm. Fabio Picciolini, adesso sentiremo anche altre domande da parte di altri ascoltatori. Volevo ritornare per un attimo sul caso di Lucia da Milano, perché il passaggio del motivo per cui si viene licenziati, per cui si perde il posto di lavoro, magari va precisato ulteriormente. Magari Lucia, ammettendo che sia stata licenziata con giusta causa, ovviamente Lucia io le auguro di no, se il suo obiettivo è chiedere la moratoria, sicuramente se si perde il posto di lavoro a prescindere dalla causa non si può pagare il mutuo, e su questo mi sembra che sia un discorso abbastanza scontato. Sicuramente Lucia potrebbe farsi comunque una chiacchierata col direttore e cercare un'alternativa, perché in ogni caso lo stipendio non entra. Mi sembra evidente, ripeto, diceva giustamente il dottor Peppetti che escludo solamente il licenziamento per giusta causa, ci possono essere delle situazioni diverse per cui è possibile appunto cercare di trovare una soluzione transitoria con il direttore, con la singola banca, come si diceva poc'anzi, i singoli gruppi hanno anche già avviato proprie iniziative, quindi un attimino una chiacchierata fa sicuramente bene. Allora, c'è un altro punto a cui tengo molto, perché questo è un punto che ha provocato in passato non pochi ostacoli a precedenti rinegoziazioni, alla portabilità e ad altre modalità con cui i clienti appunto delle banche andavano a chiedere in qualche maniera di alleggerire la rata mensile, questo soprattutto quando un anno fa i tassi erano schizzati alle stelle e veramente facevamo fatica a correre dietro ai tassi di mercato. I mutui cartolarizzati, Picciolini, quanto avete discusso su questi? E se la banca ci dicesse non gliela posso fare la moratoria, anche se lei ha perso il posto di lavoro perché noi abbiamo cartolarizzato il suo mutuo, dice una cosa giusta? Assolutamente no, questa è una storia che va avanti ormai dal 2007 e devo dire anche in questo caso oggi sono troppo buono, probabilmente l'ABI ha sempre detto che anche i cartolarizzati, ricordo l'estinzione anticipata, ricordo no, ma è tutto pubblicato peraltro anche sul sito dell'ABI, quindi, poi di fatto gli sportelli. È prima natalizio forse che è positivo, no, questa volta l'abbiamo proprio messo per iscritto che anche i mutui cartolarizzati possono essere sospesi. Io ricordo peraltro, anche se non è che poi mi faccia piacere fino in fondo, che comunque l'accordo è volontario, Quindi nel momento in cui una banca aderisce, deve aderire in toto, non può trovare scusanti che non siano quelle non riportate nell'accordo. Nell'accordo è previsto espressamente anche i mutui cartolarizzati, quindi vanno sospesi per almeno 12 mesi anche questo. Ecco, allora magari prima di andare solamente perché ne avete sentito parlare in banca a chiedere posso avere l'opportunità della moratoria e della sospensione del mutuo, allora chiaramente il direttore della banca magari dovrebbe essere prima di voi informato e quindi è chiaro che lui può, così per sommi capi, prima di analizzare nel dettaglio la situazione, dirvi sì o no. Però magari se avete tempo su internet, ormai il testo dell'accordo è pubblicato sia sul sito dell'ABI che sul sito delle associazioni dei consumatori firmatari, e date un'occhiata in modo tale che così non perdete tempo e non andate a chiedere la moratoria, magari andate dal direttore e dite so di non aver diritto a questa, piuttosto però aiutami in un altro modo ad alleggerire il mutuo. Quindi insomma le alternative ci sono e ogni banca, come diceva Peppe, ti può comunque anche offrire delle condizioni migliori al cliente, magari essere una condizione migliore che non è prevista dal piano famiglie. Insomma le alternative oggi, la possibilità di dialogare con la banca, so che è difficile, so che non ci credete, molti di voi sono scettici, però si può fare. Allora sentirei Giuseppe da Roma che pone un'altra questione sulla quale ci stanno sollecitando anche molti ascoltatori che ci stanno scrivendo. Giuseppe, benvenuto. Buongiorno e mi auguro che possa tornare con la sua macchina oggi a casa. Mi ha sentito stamattina, ma dovrebbe nevicare nel tardo pomeriggio, quindi dovrei farcela. Sì, volevo chiedere questo. Io sono un libero professionista e posso dimostrare con il mio unico, ma anche con le fatturazioni, perché io ho un rapporto continuo con la banca, che ho subito un calo delle entrate quest'anno sotto i 40.000. Ho un mutuo per ora maturato al di sotto dei 150.000 euro. Vorrei sapere, ma posso rientrare o no? Perché questo, noi liberi professionisti sembriamo in un limbo d'oro, sembriamo come se le nostre possibilità fossero sempre più larghe, e invece poi la crisi la sentiamo anche noi. Io faccio il grafico pubblicitario. Il popolo delle partite IVA, giusto Giuseppe? Ecco, bravo, facendo il grafico pubblicitario ho avuto proprio una grandissima sensazione che la crisi abbia investito in modo totale proprio questo settore. No, peraltro è uscita questa faccenda, questa considerazione anche nella puntata che abbiamo fatto venerdì scorso, che non riguardava i mutui, riguardava un altro argomento, e però insomma è una voce che si sta sollevando, sempre più arrabbiata, che si sente sempre più sola. Peppetti, giro a lei. Allora, la moratoria riguarda solo le famiglie che hanno come intestatario di mutuo un lavoratore dipendente a tempo indeterminato, prima mi dicevo determinato, insomma ritorniamo un po' sui parametri, e soprattutto Giuseppe potrebbe teoricamente aderire alla moratoria? Ma guardi, teoricamente può aderire, anche perché qui si parla di morte o insorgenza di condizioni di non autosufficienza che riguardano tutti a prescindere dalla professione che si svolge. Noi abbiamo deciso di agevolare chi ha di fatto perso definitivamente, cessato definitivamente ogni tipologia di entrata e quindi la perdita del lavoro, individuando anche degli eventi che fossero esogeni, quindi non dipendenti in nessun caso comunque dalla volontà del cliente, e che riguardasse poi di fatto ovviamente clienti che a un certo punto avevano sempre pagato, poi verificarsi di eventi che non dipendevano dalla loro volontà, si sono trovati costretti a non riuscire o comunque ad avere difficoltà nel pagamento della propria LAP. Rientra in questa fattispecie anche i rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale, di collaborazione in una prestazione di opera continuativa e coordinata, anche se non di carattere subordinato, ma che ci sia una cessazione del rapporto e quindi non una riduzione delle entrate o del business. Quindi teoricamente Giuseppe non potrebbe fare una richiesta di moratoria? Per una riduzione del proprio, diciamo tra virgolette, fatturato non è prevista, anche se so di banche che faranno offerte migliorative anche per questa categoria. Fabio Picciolini, vorrei sentire lei su questo popolo delle partite IVA, come l'ho definito, ma è universalmente riconosciuto in questi termini da tutti. Però no, Giuseppe solleva un problema, infatti. No, e questo è stato uno degli altri argomenti su cui poi a torto gol abbiamo dovuto accettare. Cioè il discorso è che la semplifica al massimo, potrà accedere a questa iniziativa solamente chi ha chiuso la partita IVA. Sto semplificando totalmente, sì. Spero di non prendere rimproveri. Il fatto di poter trovare soluzioni, ad esempio, come io stesso avevo proposto, per riduzione rispetto all'anno precedente, mi sono spiegato che non era possibile anche perché l'IVA ancora non è stata tutta quanta pagata, c'erano vari problemi. Questo è uno degli argomenti che le singole banche dovranno affrontare, perché le partite IVA, particolarmente io penso alle piccolissime imprese, ai commercianti, dicendo, sicuramente hanno gli stessi problemi che abbiamo, che commercianti che hanno, ovviamente operano come liberi professionisti. Come monitorerete sull'andamento dell'iniziativa nel corso del 2010 per avere un quadro aggiornato e attualizzato della situazione, Picciolini? Abbiamo sottoscritto l'accordo, prevede anche di monitorare questa iniziativa per tutto l'anno, cioè in questo caso ci ha aiutato, non è una battuta, è solamente una amara constatazione, l'andamento dei primi mesi della moratoria ABI con Confindustria, quindi abbiamo chiesto e ottenuto, e l'ABI è stata ben disponibile, devo dire, di avere a trovare una soluzione in cui almeno ci incontreremo almeno due volte nel prossimo anno, quindi almeno tre volte totalmente, perché poi si valerà fino al 2011, poi le domande dovranno essere presentate fino al 2011, vedere appunto come stanno andando le cose per trovare situazioni migliorative e, lo dico veramente in maniera molto chiara, verificare anche i comportamenti delle singole banche. Allora, stanno arrivando tante domande, ovviamente adesso ho lasciato un attimino in sospeso la questione di come avverrà poi il rimborso, perché chiaramente il mutuo viene sospeso e non è che questo anno poi la banca ce lo regala, poi è una cifra che viene accantonata e che in qualche maniera dovrà essere restituita, per cui in parte il mutuo si allungherà di questo anno di sospensione, ma bisogna vedere appunto, come già anticipava prima Fabio Picciolini, come verrà rimborsata poi questa quota che viene sospesa, verrà come dire articolata in due parti, la quota capitale e la quota degli interessi, quindi come chiaramente qui la voce un po' più autorevole nella scelta delle modalità di rimborso a quanto pare ce l'avrà la banca. Allora sentiamo un po' quanto si potrà trattare anche su questo aspetto. Allora sentirei la domanda di Antonia da Isernia, poi sentiamo i suggerimenti per chi è in viaggio e le risponderemo subito dopo. Antonia, benvenuta. Buongiorno, sì, esattamente questa è la mia domanda, cioè vorrei conoscere i tempi di restituzione sia della quota capitale e soprattutto poi a quanto ammontano gli interessi che dovrò pagare in più su questa sospensione. Perché infatti pare che nel periodo di sospensione continueranno a maturare gli interessi appunto contrattuali pattuiti. Salva Danaio. Febbraio la moratoria, stamattina sarà la neve, ma avremo incespico in continuazione, speriamo di concludere degnamente questa trasmissione, visto che il tema è tanto importante. Da febbraio parte la moratoria sui mutui per le famiglie italiane, c'è stato l'accordo venerdì ABI consumatori sullo stop delle rate per 12 mesi alle famiglie in difficoltà. 800 24 00 24, numero verde per le vostre domande. Angelo Peppetti dell'ABI, per rispondere alla domanda di Antonia da Isernia le faccio un piccolo preambolo, perché forse questo aspetto non abbiamo definito. Mentre altre misure di sostegno alle famiglie in passato riguardavano esclusivamente i mutui a tasso variabile, questa moratoria mi sembra non faccia distinzioni fra tassi di interesse fissi o tassi variabili. No, riguarda tutte le tipologie di tasso, quindi misto, variabile o fisso. Rispondiamo ad Antonia Sida Esernia, che vuole sapere praticamente quest'anno di sospensione poi la banca come chiederà di vederle riconosciute il rimborso. Sì, ci sono due modalità che la banca definirà al momento in cui aderirà all'iniziativa: se sospendere solo la quota capitale, quindi si pagherà di fatto gli interessi, il cliente dovrà pagare la quota interessi durante il periodo di sospensione, ovvero sospenderà tutta la rata. In quest'ultimo caso vi sarà una traslazione della durata del finanziamento per il periodo di sospensione e si matureranno gli interessi sul debito residuo. Interessi che possono essere contrattuali o anche inferiori, questo dipenderà dalla modalità di adesione da parte della banca, e eventualmente, e so che ci saranno banche che lo faranno, secondo l'indicazione che darà al momento dell'adesione, come diciamo offerta migliorativa. Questi diciamo interessi in più maturati verranno poi spalmati senza applicazione di ulteriori interessi per un determinato periodo che dovrà tener conto ovviamente della capacità di rimborso acquisita da parte del cliente. Non è nostro interesse ovviamente il termine della sospensione né fargli ripagare tutti immediatamente oppure incrementare così tanto la rata da impedirgli il rimborso. Questo no, infatti, ovviamente è, perché sennò vorrei dire la sospensione. Esatto, insomma, perché ecco, se poi ci ritroviamo che la prima rata da cui si riprende il discorso sospeso è una rata che esplode perché c'è tutti quanti gli interessi pregressi, è chiaro che questo vanifica poi tutto lo sforzo fatto. Fabio Picciolini, volevo tornare a lei. Secondo lei come farà una famiglia a valutare quale potrebbe essere l'opportunità migliore di sospensione, se fare quella integrale, cioè sospendere completamente la rata, oppure sospendere solamente la quota capitale, appunto, e continuare invece a versare gli interessi? Secondo lei, insomma, in base a quale criterio si potrà fare una valutazione di fattibilità all'interno di casa propria? È chiaro che bisogna fare poi un po' i conti, però. Purtroppo a livello generale l'accordo non prevede questo. Noi speriamo che chiaramente nei singoli incontri con le singole banche di ottenerlo, però in questo momento qui il mutuatario deve accettare ciò che gli proporrà la banca. E secondo lei la banca quale soluzione preferirà? Ma io mi auguro che tutte operino sullo slittamento totale, sulla postergazione totale delle rate. Ho paura che particolarmente le piccole banche, quelle un po' meno forti, cerchino di usare anche l'altra soluzione. Ripeto, qui no, devo dire anche che adesso, soprattutto perché è il mutuo a tasso variabile, diciamo che la quota interessi che paga sull'importo complessivo è molto ridotta, per cui se ce la si fa magari converrebbe anche optare per questa soluzione, quella di continuare a pagare gli interessi che magari potrebbero essere, certo, 100-150 euro al mese, non di più. Ha ragione perfettamente, per chi ha una cassa integrazione, per chi magari ha il coniuge che lo dicendo, per chi ha perso il lavoro ho paura che ci possa che anche questi 100 euro fanno comodo, insomma, portare a casa facile spesa. Anche perché c'è da tenere presente una cosa, che non è colpa di nessuno, per carità, quindi lo voglio premettere, che comunque il mutuatario seguirà a pagare qualcosa in questo periodo, perché nel periodo ci saranno comunque i premi, se non l'ha già pagato inizialmente, ci sono comunque i premi assicurativi da pagare, e quindi non è che pagherà totalmente, non pagherà assolutamente nulla. Quindi ci sono dei passaggi che poi, ripeto per l'ennesima volta, dovremo poi verificare con la singola banca. Io mi auguro che tutte o quasi tutte vadano sul slittamento alla fine del contratto, perché, ripeto, si tratta di situazioni purtroppo devo ricordare, di morte, di forte handicap, di licenziamento, di cassa integrazione. Quindi credo che le banche anche su questo dovrebbero fare un ragionamento molto, molto sociale. Esatto, insomma è un tema delicatissimo. Simona da Roma, benvenuta. Pronto? Pronto, buongiorno. Sì, buongiorno, grazie dello spazio. Grazie a lei. Volevo fare una domanda. Volevo sapere se nel nucleo familiare il coniuge ha perso il lavoro, ma non è l'intestatario del mutuo, perché è chiaramente la moglie. Questa sospensione si applica anche a questo nucleo familiare. Simone, andiamo subito da Angelo Peppetti. In realtà noi non abbiamo appunto previsto il nucleo familiare, abbiamo previsto l'intestatario del mutuo. Esatto, anche perché probabilmente quando intestiamo ad un unico soggetto, significa che l'unico soggetto è in grado, almeno attraverso il nostro sistema, un terzo della rata in funzione del terzo dell'importo della rata rappresentativo del reddito, riesce a sostenere la rata da solo. Insomma. Fabio Picciolini, a questo aspetto non avevate pensato, magari all'interno della famiglia, insomma, il reddito è fatto di due persone, si fanno i conti in base alle entrate di due persone, però così magari per scelte poi del tutto individuali si intesta il mutuo ad una singola persona e perde lavoro l'altra. No, ci avevamo pensato. Questo è un accordo su cui ci sono molte cose buone, molte cose che speriamo di migliorare. Noi siamo partiti solamente 20 giorni fa, in cui il tetto del mutuo era 100.000 euro, le rate arretrate non pagate erano a 90 giorni e anche il periodo da prendere riferimento partiva dal 1 luglio. È chiaro che dobbiamo fare delle scelte anche dolorose, perché sono cose che sappiamo e che abbiamo anche provato a proporre. In un accordo ci sono situazioni che molto spesso non convincono nessuno delle due parti. Io mi permetto, non perché l'abbia detto io, ma perché credo che sia giusto, sia il passo giusto che abbiamo fatto. Questo accordo ha secondo me ha il merito di aver dimostrato come ognuno sa rinunciare a qualcosa. Ha rinunciato a qualcosa l'ABI, ripeto, 30 giorni fa le condizioni erano inaccettabili per noi, e noi abbiamo accettato alcune limitazioni che ovviamente sono molto, molto pesanti, però è che in un accordo bisogna fare questo. Mi permetta ancora solamente un aspetto: in questo accordo, a differenza di quelli di Confindustria, c'è la possibilità per chi ha rate arretrate di entrare nell'iniziativa, scongiurando magari un pignoramento che potrebbe teoricamente già essere partito, ecco. Le imprese devono essere in bonus, quindi credo che queste derelitte associazioni dei consumatori, derelitte ovviamente non lo sono affatto, hanno fatto un buon lavoro in questa occasione. No, tra l'altro ho precisato questo aspetto perché proprio stamattina altre associazioni dei consumatori, non stamattina, anzi un paio di giorni fa, hanno quantificato il boom dei pignoramenti delle aste giudiziarie negli ultimi mesi, proprio perché ovviamente le famiglie, non riuscendo a onorare il pagamento appunto del mutuo, chiaramente rischiano di perdere casa. Allora, se con questa situazione, anche se magari non alleggerisce più di tanto, ma comunque sana una situazione che è problematica già da qualche mese, secondo me già questo è un ottimo risultato. Le famiglie non perdono la propria casa, e scusate se è poco. Giovanni da Modena pone un altro punto al quale non si era pensato. Giovanni, sentiamo un po', buongiorno. Buongiorno. Senta, rapidissimo, sì, grazie. Senta, io ho un mutuo, ho 62 anni, ho un mutuo ancora di 3-4 anni. C'ho una pensione che non arriverebbe a coprire il mutuo e vivere, no? Ma però ho delle azioni, le azioni, siccome che adesso sono andato molto basse, il dividendo non me l'hanno pagato, ecco che il reddito viene a mancare, e io chiedevo come se era possibile fare la sospensione per lei. Giovanni, allora vado subito da Angelo Peppetti, perché Giovanni chiede in qualche maniera comunque risparmio che uno ha da una parte, viene poi tenuto in considerazione anche nel calcolo del reddito mensile, insomma questo tetto di 40.000 euro che abbiamo detto, considera anche il risparmio accantonato? No, dunque si tratta di reddito da capitale, di reddito imponibile, imponibile, quindi quello che esce dalla dichiarazione. Semplicemente per consentitemi di precisare un qualcosina che ha detto anche il dottor Fabio Vecciolini, l'impegno è particolare dell'industria bancaria, che ha fatto uno sforzo a perdere, sia chiaro questo, è un'operazione a perdere per l'industria bancaria, fatta non da un soggetto pubblico ma da un soggetto privato. Ecco perché quando lo dico che non ha uguali, perché non esiste uguali un'iniziativa autonoma di tipo privato. È chiaro che in un momento di crisi ci attiviamo tutti quanti per cercare di fare la nostra parte, è chiaro. Anche perché per voi attivare i pignoramenti nel momento in cui in massa molti clienti cominciano a non pagare non è un'operazione anche quella molto semplice, per cui è chiaro che avete anche l'interesse. Tra l'altro volevo anche dire che ogni accordo ovviamente è perfettibile, no? Perché 12 mesi e non 18, ma poi se avevamo fatto 18 perché non 24? Sì. È giusto quello che ha detto il dottor Picciolini, abbiamo fatto una contrattazione matura, nel senso di dire cerchiamo di raggiungere un punto d'incontro che sia migliore possibile ed accettabile, diciamo, non tanto Pareto efficiente ma Nasciano efficiente, ma lasciando comunque ampio spazio alle banche. Peppetti, io maniera... devo concludere, purtroppo so che ci sarebbero tante cose da dire, vorrei rispondere solo all'ascoltatore che ci ha chiesto se comunque quella quota di reddito che lui percepiva mensilmente, che gli arrivava comunque dal rendimento di un investimento, va tenuta la banca gliela terrà in considerazione nel momento in cui lui avesse necessità di sospendere il mutuo aderendo alla moratoria. Diciamo che il tetto di reddito è un elemento per accedere, una volta che si ha l'accesso, a prescindere diciamo dal risparmio, si può applicare ovviamente. È un caso un po' complicato. Allora facciamo una cosa, ricontattiamo l'ascoltatore, ci ragioniamo su un attimo, Peppetti, e poi magari vediamo che risposta dargli, perché poi tra l'altro insomma i casi possiamo dare delle cose, come dire, delle indicazioni generali, poi ognuno ha una situazione specifica in casa e ognuno va trattato in maniera diversa in relazione al suo rapporto con la banca. Io vi ringrazio per essere stati con noi, ma ci sentiamo a metà gennaio di sicuro per fare un punto della situazione e rispiegare tutti i parametri ai nostri ascoltatori per aderire alla moratoria. Peppetti, grazie, buon lavoro. Voi vediamo quante banche avranno aderito. Senz'altro, bravissimo. Picciolini, monitoriamo anche noi e lei ci aiuterà come sempre. Tanti auguri innanzitutto anche esatto. A lei e a tutti gli ascoltatori. Buon Natale ad entrambi. Noi con Salvadanaio però torniamo domani. Buona giornata.